Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Nuovamente in diretta dagli studi di Via Zanardi dopo il GR di Radio Popolare, lunedì 22 aprile, Last Minute ci porta al Mercato Sonato alle 19.30 per la presentazione dell'esposizione L'Eco del Padrone. Intanto una piccola così continuità con lettura delle prime pagine. Allora, come ben sapete, io chiudo gli occhi, non do notizie riguardanti il calcio, proprio per scelta, da quando esiste il Breakfast Club. Riportate sulle prime pagine è impossibile, cioè è proprio qualcosa, no, è una mia scelta. Inevitabilmente però dal resto del Carlino leggo questo occhiello di approfondimento. Evidentemente questa sera, tra l'altro non ne sono neanche informato, c'è una partita di calcio dove protagonista è la squadra della nostra città a Roma. Il Carlino porta questo occhiello di approfondimento per lo sport. Bologna marcia su Roma. Vedete un po' voi. Bah. E intanto che così mettevo a posto, no, i quotidiani in redazione, ascoltavo il GR di Radio Popolare, mi è capitato il Carlino e ho trovato questo titolo in prima pagina per quanto riguarda lo sport. Poi lascio le riflessioni a voi, ovviamente. Io ne sono rimasto, per così dire, male, ecco, molto male. Comunque, pian piano dobbiamo abituarci. Io non mi abituo, ecco. E per quanto riguarda, tra l'altro, il collegamento che ci può essere col nostro Last Minute per l'appuntamento di questa sera, anche purtroppo quello che vediamo con i casi di censura continua, il caso Scurati, quello che è stato riportato e vedremo anche nell'approfondimento di Rassegna Stampa. Intanto ne ho dato una lettura nelle prime pagine. Questa sera alle 19.30, come vi ho già anticipato, l'esposizione, la presentazione, l'incontro con curatori, organizzatori, centro di ricerca Il Pioniere, avremo anche il direttore di Radio Città Fujiko Alessandro Canella, ci sarà l'intrattenimento musicale da me curato, lancio un brano per preparare anche l'anticipazione con la voce del curatore per L'Eco del Padrone. Avete già sentito più volte anche lo spot, perché come ben sapete per questo aspetto Radio Città Fujiko in parallelo con Il Pioniere è molto presente ed è molto sensibile a questi contenuti, soprattutto avvicinandoci a delle date importanti. Quindi l'invito ovviamente è ribadito, ascoltiamo Robin Hitchcock e rientriamo tra poco con la voce del curatore dell'esposizione di questa sera in apertura alle 19.30 al Mercato Sonato di Via Tartini. It's all for the best, you say. Somewhere down the line, everything is fine, everything is mine. Pharaoh's tomb is empty now. You can come right in, bandage up your grin, bandage up your sin. Oh, I am in a hurry for the sky. Oh, I am in a hurry for the sky. Yeah. You can easily confuse money with success. Success is always relative. Money is acute, money's absolute, money in your dress. Oh, I am in a hurry for the sky. Yes, I'm number two said to number one.

perché l'originalità dell'esposizione, quindi ci saranno anche motivi di dibattito con questi contenuti. Grazie a Morena Moretti del Comitato di Ricerca al Pioniere, grazie alle voci. Io ho presentato Giuseppe Ciarallo perché ha dato il via a questa conversazione, e aggiungo anche Davide Morena, che troverete appunto per la presentazione al mercato sonato. Ci sarà anche il direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella. Metterò qualche disco, se ne avrò la possibilità, per il momento conviviale dell'incontro. Quindi vi aspetto alle 19.30, via Tartini, mercato sonato, l'eco del padrone. Un po' di musica, poi pubblicità e si rientra con i magazine. Thank you.